In occasione del 30° anniversario dalla morte di Primo Levi, una famosa casa editrice decide di distribuire gratuitamente un suo libro in formato ebook, La Bella Addormentata nel Frigo. Accedere al libro prevede però l'iscrizione ad uno store, sistema di vendita digitale con identificazione attraverso dati anagrafici e carta di credito. Il libro, inoltre, contiene DRM, Digital Restriction Management, che ne impediscono il prestito e la copia. La tecnica, che avrebbe permesso di liberare il libro, qui invece lo vincola con delle catene digitali. DRM sta per Digital Restriction Management, gestione delle registrazioni digitali. Si tratta di un linketto inserito nelle canzoni, nei film e nei libri, allo scopo di limitare l'esecuzione di video e musica su un solo computer. La condivisione non è prevista e anzi diventa impossibile. Il pubblico, noi, perde contemporaneamente la libertà e la possibilità di condividere. Per i prodotti culturali questo non è sopportabile. Il sistema del DRM viene creato dalle grosse industrie dell'intrattenimento, le quali preferiscono chiamarlo Digital Right Management, ossia gestione dei diritti digitali. Ma trattandosi di un sistema di violazione dei diritti, noi lo vediamo e lo chiamiamo restrizione. Il DRM fa parte di un sistema di controllo più vasto, chiamato Trusted Computing, dove il computer, invece che obbedire a voi, obbedisce all'azienda che l'ha costruito e sul quale circola software proprietario che impedisce all'utilizzatore le basiche libertà di studio, di condivisione e di miglioramento. A Milano, presso la Club Unit, nell'anno 2017 il GLEP, Gruppo di Liberazione e Pub, decide di rompere i DRM e forzare il sistema di distribuzione iTunes di Apple che Einaudi ha scelto per la pubblicazione digitale del libro di Primo Levi, La Bella Addormentata nel Frigo. Hey Siri, FaceTime Dwayne. Making a FaceTime call to Dwayne. When are you getting back to set? Everybody's freaking out here, man. We still got the last shot. Don't worry, I'll be there, okay? Okay, I'm gonna go get fired. Bye. Bye. Hey Siri, take a selfie. Cuts! All right, that felt good. DJ, that was amazing, man. Is it okay? Of course you're okay. How can Angel do, Johnson? You just seemed crushed. How can Angel do? So glad you're all right, man. I'm so glad you're back. We got a lot to do. Yeah, we do have a lot to do. Hey Siri, create a new list. What should I call this list? Life Goals, the sequel. Okay, normally I like sequels, but I think right now we need to push off on that and just keep you open for other projects. Hey Siri, you're the best. Thanks, Mr. Big. Bald and beautiful. I love you too. È chiaro, mi sembra che quest'uomo, se è in grado di essere così efficiente, di fare così tante cose, lo deve soprattutto al suo telefonino e al software che gli gira sopra, il suo assistente vocale, il quale è assolutamente, lo rende un superuomo. Lui ha addirittura ritoccato la Cappella Sistina, si è fatto un selfie mentre stava nello spazio ed è tornato in tempo per salvare il mondo e per finire il film e anche scherzato con gli amici. Questo secondo noi significa qualche cosa. Quello che Apple ci sta vendendo in questo momento non è solamente un assistente vocale, ma ci sta vendendo e promuovendo quello che chiamiamo con una parola la delega alla macchina. Il signore, nonostante sia molto bravo, ha assolutamente delegato la sua vita e questo sembra essere estremamente profittevole per lui. Accenno brevemente a questa questione, che di solito è molto poco conosciuta e viene molto sottovalutata, ma in realtà è un qualcosa che ci riguarda direttamente, soprattutto che riguarda chi ha un particolare interesse nei confronti dei libri e della condivisione della conoscenza. Negli ultimi 15 anni, naturalmente c'è stata un'evoluzione dal punto di vista tecnologico rispetto ai tipi di formati che riguardavano i libri. Questa evoluzione ha visto diversi player, diciamo, in gioco nella definizione di uno standard. Negli standard di solito entrano, gli standard sono fatti da degli enti istituzionali, ma in realtà entrano in gioco tantissimi tipi di aziende, tra cui prima di tutto naturalmente i browser, cioè quelli con cui noi navighiamo, e le aziende che rilasciano codice che legge un determinato standard, hanno un ruolo fondamentale, importantissimo. Non solo gli enti che definiscono gli standard, è un gioco, un balletto, una sorta di danza tra chi decide cosa deve essere considerato uno standard e quelli che implementano lo standard, perché non ha nessun senso rilasciare uno standard che non viene implementato da nessuno, come non ha molto senso che un'azienda decida determinati standard a cui poi gli utenti si abituano e che questo poi non diventi un qualche cosa di continuativo nel tempo. Quindi è un dialogo che avviene da diverso tempo, un dialogo in cui Apple sta avendo un ruolo fondamentale, perché è stato, di solito si dice, comunque nel tempo, nel web si è sempre vista questa cosa, chi rilascia il codice vince rispetto agli standard, e Apple rispetto allo standard degli EPUB ha rilasciato codice e lettore e dei lettori, e quindi in qualche modo è entrata di diritto nella definizione dello standard dei libri, cosa che era successa già da tempo, diciamo, con Netscape, che poi adesso è diventata la base, diciamo, semplificando la storia del web, la base di Mozilla che noi tanto amiamo, ma in realtà è sempre stato un gioco di aziende. E questa cosa qui prevede che soltanto Apple sia veramente diciamo il device o la casa di software che supporta pienamente quello che è lo standard per i libri, e che si faccia fatica, anche notevole dal punto di vista dell'open source, a sostenere questo tipo di passaggio tecnologico. Adesso ci sono degli avvisaglie. E quindi era anche un modo per richiamare l'attenzione su un argomento che è stato un po' lasciato in disparte, perché c'è stato un primo entusiasmo tecnologico rispetto alla versione digitale dei libri, poi proprio per la causa della guerra tra le aziende e la difficoltà di poter fare veramente questi libri digitali, si è abbandonato il campo, lasciando completamente la strada solo unicamente a questo tipo di contrattazione e lotta tra i grandissimi player, cioè significa Amazon, Apple, Windows e Google. Cioè sono solo loro in realtà che adesso stanno giocando quella partita. Spero che questa conoscenza ti sia utile e mi auguro che tu la condivida.